vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 23 luglio, il sole in regione è sorto alle 5.38 e tramonterà alle 20.49. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. La coltivazione della patata minacciata da un parassita, il cosiddetto ferretto. Ma se in Emilia-Romagna, la regione più vocata, il calo di produzione è stato netto, in Friuli Venezia Giulia si è riusciti a mantenere le posizioni, conferma la cooperativa di Zoppola Copropa. Angelo Floramo ci racconterà poi la storia dei pescatori di rane. Nella rubrica delle normative, le novità della DOC Prosecco sui quantitativi di produzione per mantenere gli equilibri di mercato. Nella pagina dedicata alla frutticoltura ci sono le olive e i loro problemi, sia pure dopo una fioritura abbondante e promettente. In quella dei sommelier una scheda sul prezioso Picolit, protagonista dell'angolo dei fiori, e invece l'Euphorbia mili o spina di Cristo. In chiusura, andamento dei mercati, previsioni per la settimana entrante e proverbio friulano. Un recentissimo convegno a Zoppola ha fatto il punto sulla produzione delle patate in Friuli Venezia Giulia. A differenza dell'anno scorso, il nuovo raccolto si annuncia molto buono sia in termini di quantità che di qualità. C'è però ancora un ma, e ce lo dice il presidente della cooperativa Copropa, che ha sede a Zoppola, Piervito Quattrin. Qual è questo ma? Il ma è un parassita. È la perdi, chiamata in genere tennio, che noi comunemente chiamiamo ferretto, che è un vermiciattolo che va a sforacchiare le patate all'interno e quindi non sono più commerciabili. Quali sono le armi, quelle che esistono e quelle che potrebbero arrivare? Le armi che esistono sono poche, insetticidi ne abbiamo pochi. Quelle che potrebbero arrivare sono i risultati del SISAR. SISAR è uno studio che stiamo facendo di ricerca e di assistenza tecnica finanziato dalla regione. Esistono patate resistenti all'attacco di questi parassiti? Magari. Sono varietà più tolleranti e meno tolleranti. È sempre il campo prova lì dell'ERSA, sta testando anche queste varietà. Però resistenti è una parola grande. Quali sono i numeri della produzione di patate in Friuli, Venezia, Giulia, e qual è l'andamento nelle altre regioni, in particolare l'Emilia-Romagna, che è il primo produttore in Italia? In Friuli Venezia Giulia io ritengo che sia tendenzialmente stabile, anche noi come cooperativa lo siamo. Cosa diversa invece in altri areali, perché con la bastonata del 2022 gli agricoltori si sono indirizzati verso altre colture e hanno ridotto, si parla di un 30-35% l'investimento in patate. Quanti ettari in Friuli Venezia Giulia? Circa quanti quintali o tonnellate? Parlo per la cooperativa, che facciamo circa 100 ettari, quest'anno abbiamo fatto, dovremmo fare 45.000 quintali di patate. Il fatto che l'Emilia Romagna abbia quest'anno un calo così importante può giocare a favore della produzione regionale? Sicuramente sì, perché la patata è un prodotto in balia del mercato, per cui evidentemente calando l'offerta speriamo che aumenti il prezzo. Copropa si trova a Zoppola. Zoppola è un territorio in regione vocato. Perché? Perché storicamente potremmo dire, perché abbiamo fatto delle ricerche eccetera, però recentemente per l'assegnazione del riconoscimento dell'IGP abbiamo fatto anche delle analisi approfondite e abbiamo visto che i nostri terreni hanno degli equilibri minerari diversi, particolari, che dovrebbero essere di origine dolomitica. Chi coltiva patate non coltiva esclusivamente patate qui da noi, sono aziende miste? Sicuramente sì, ed è quello che noi cerchiamo anche di inserirsi dentro in queste aziende per differenziare le loro attività e io penso anche migliorare la loro attività. Noi questo ne soffriamo un pochino, perché a differenza di chi ha il frutteto, che quello, anche se capita un'annata difficile, deve riprendere l'annata eccetera, con le patate potrebbe fare altri seminativi e quindi dobbiamo stare molto attenti per mantenere la nostra attività. Cioè decidere di lasciar perdere le patate. E noi invece vogliamo che i soci continuino a metterle le patate, insomma, ecco. Presidente Quattrin, la produzione locale comunque non soddisfa la richiesta del mercato regionale, eppure le patate vengono vendute anche fuori dalla regione. Qual è il mercato della patata friulana? Il nostro mercato è principalmente in Friuli, qualcosetta fuori. In Friuli si producono molto meno patate di quelle che servono, noi continueremo a fare la nostra promozione per farle conoscere affinché consumino prodotto locale. Un'ultima domanda, Presidente Quattrini. I consumatori sono sempre più attenti alla salubrità del cibo. La patata che viene prodotta in regione, che garanzia offre da questo punto di vista? Se il consumatore è sempre più attento alla salubrità, noi siamo sempre più attenti a dargli il prodotto salubre, che abbia basso impatto ambientale, abbiamo tutte produzioni certificate con lotta integrata. Io vorrei fare un'aggiunta, magari se il consumatore stia un po' meno attento all'aspetto estetico, perché se c'è un buchetto di ferretto piccolo può andare anche bene. Memorie d'estate nella storia che ci racconta oggi Angelo Floramo, quando si catturavano le rane, oggi piatto gourmet, ieri risorsa alimentare. Il calore intenso di queste giornate estive può soffocare l'acqua dentro la gola delle fosse. Così, alla prima sventagliata di piova, quella che disseta i campi e riempie gli agars, le rane escono dalla mota e rendono grazie per tanta fresca abbondanza. In certe nottate umide cantano nei pantani fino alle prime luci del giorno, quando di nuovo il sole le costringerà a cercare rifugio nell'ombra, lasciando il podio alle più pettegole cicale. In tempi in cui la fame condiva la mensa e la tavolata aveva più bocche che bocconi, potevano diventare un piatto succulento, da apparecchiare così alla buona di Dio, saporito e nutriente, offerto agli umani con insperata abbondanza da una natura non sempre in vena di generosità, proprio come la manna nel deserto per il popolo di Mosè. Se oggi le coscette pastellate e fritte sono una croccante prelibatezza di certe cucine raffinate e per fortuna un sano presidio alimentare in alcune osterie sincere e veraci, di profilo rustico e pignatta fedele alla tradizione, fino a qualche decennio fa sapevano salvare la famiglia dalla desolazione del piatto vuoto, e non solamente nei borghi rurali, ma anche nei quartieri periferici di una città come Udine, attraversata da una venatura di rogge capaci di trasformarsi in una vera e propria dispensa alimentare per occhi esperti e mani sapienti. Non a caso gli abitanti di Borgo Grazzano venivano soprannominati crotars, ovvero cacciatori di rane, pare per la loro predilezione rivolta al cibo in oggetto, e anche per la scaltrezza con la quale se lo sapevano procurare. I cacciatori prescelti erano per lo più i ragazzini, mandati a perlustrare nelle ore del tramonto sul far della sera agli stagni le polle sorgive, le rive fangose dei tanti canali che da secoli innervano la campagna friulana. Si aggiravano nella guatta con le braghe corte e scalzi, ma quando mai si indossavano scarpe. Al limite il piede era protetto dagli zoccoletti di legno, meglio noti come ciuculus. Gli adulti, se mai li accompagnavano, risvoltavano il bordo dei calzoni fino al ginocchio, assumendo il classico aspetto del pestie crot, letteralmente pescatore di rane, un epiteto che ancora oggi in friulano si appiccica a tutti coloro che hanno un andare dimesso o indossano capi di abbigliamento troppo ristretti, con le braghe che mostrano le caviglie, cosa che oggi pare essere di gran moda, proprio come le rane, marinate nell'aceto con sedano, prezzemolo e cipolla. Lo sfrigolio della fersorie è già garanzia di successo. A poco più di un mese dall'inizio delle vendemmie, la DOC Prosecco annuncia una serie di misure per il controllo della produzione. Ne parliamo con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti Friuli Venezia Giulia. Sì, il consorzio per la tutela della DOC Prosecco è notoriamente molto attento agli equilibri del mercato e all'andamento dei prezzi in cantina e sullo scaffale, che monitora costantemente. Sulla base dei dati forniti dalle regioni per quanto riguarda le superfici in produzione e dall'ente di certificazione per quanto riguarda giacenze e imbottigliamenti, il consorzio modula, a seconda delle necessità, tutti gli strumenti di governo dell'offerta messi a disposizione dalla legge 238/2016, stoccaggio amministrativo, riserva vendemmiale, contingentamento delle superfici e attingimento straordinario di uve da superfici idonee ma non ricomprese nel potenziale viticolo della DOC, che, lo ricordiamo, è fissato a 24.450 ettari, dei quali 4.528 in Friuli Venezia Giulia e il resto in Veneto. Quali sono le ultime proposte? Anzitutto viene richiesto alle regioni il rinnovo per altri 3 anni, cioè fino al 31 luglio 2026, della sospensione temporanea dell'iscrizione di nuovi vigneti della varietà Glera per la produzione di Prosecco DOC. Contestualmente viene richiesto anche il blocco delle iscrizioni di nuovi vigneti di Pinot Nero destinati per lo più a Prosecco Rosé. Direi che questi due provvedimenti da tutti erano dati per scontati. Quest'anno è arrivata anche la proposta di bloccare l'iscrizione di nuovi vigneti di Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Grigio, quali vitigni complementari. Naturalmente queste limitazioni riguardano solo Prosecco e non le altre DOC e IGT della regione. E per la prossima vendemmia? Tenuto conto di giacenze e trend degli imbottigliamenti, il Consorzio ritiene che quest'anno serva un attingimento straordinario di ulteriori 4.750 ettari circa. Quindi propone di destinare alla DOC eventuali superfici di GLER e IGT fino a un massimo di 2,5 ettari per azienda, a condizione però che i vigneti fossero in conduzione alla data del 15 maggio 2023 e siano stati piantati entro il 31 luglio 2018, oppure siano stati piantati dal 1 agosto 2018 fino al 31 luglio 2022 a seguito di estirpi di superfici in conduzione, sempre alla data del 31 luglio 2018, ricadenti nel territorio della denominazione e in questo caso nel limite massimo di un ettaro. Oltre a queste misure è atteso un provvedimento per lo stoccaggio obbligatorio delle produzioni derivanti da rese eccedenti i 150 quintali per ettaro fino a un massimo di 180 quintali per ettaro. E infine si prevede che per la vendemmia 2023 eventuali superi di campagna debbano essere obbligatoriamente destinati a produzioni diverse dal vino. Allevare l'olivo in Friuli Venezia Giulia non è certo cosa semplice, ci sono molti problemi, ce li elenca il professor Raffaele Testolin in questo contributo per la rubrica della frutticoltura. In questo periodo devo raccogliere il pianto degli amici che hanno piante di olivo che non producono o producono poco. Molti mi stanno dicendo: ho avuto una fioritura spettacolare, mai visto tanti fiori come quest'anno, ed è vero, ma le olive sono cadute tutte o quasi. Vediamo allora di capire qualcosa di più di questa pianta difficile a dispetto dell'apparente rusticità. Intanto rassegnatevi ad una cascola elevata di fiori. Se l'allegagione è buona, dovreste avere una oliva ogni 100 fiori. L'olivo è fatto così e gli olivicoltori di professione cercano di rimediare alla scarsa impollinazione girando per gli oliveti con le ventole al momento della fioritura. I risultati possono essere notevoli, ma c'è dell'altro che i professionisti conoscono bene. Le varietà di olivo si dividono in due gruppi A e B. Le varietà del gruppo A devono essere impollinate dalle varietà del gruppo B e viceversa. Se avete un'unica varietà o varietà diverse ma dello stesso gruppo, continuerete a non produrre olive, a meno che il vostro vicino non abbia varietà che possono impollinare la vostra pianta di olivo. Il vento porta il polline anche a lunghe distanze e questa a volte è una fortuna. Considerando le varietà che vengono abitualmente coltivate in regione, al gruppo A appartengono Leccino, Frantoio, Bianchera, Carbona, Cernizza e Gorgazzo. Al gruppo B appartengono Maurino, Buga, Drobnica, Grignan e Pendolino. Trovate le due liste sul sito Facebook di Vita nei Campi. Se producete poche olive o non ne producete affatto, se avete un'unica varietà o varietà dello stesso gruppo, affrettatevi a piantare un olivo appartenente ad una varietà dell'altro gruppo e nel giro di 5-6 anni avrete risolto definitivamente il vostro problema, altrimenti dovrete rassegnarvi a comprare l'olio al supermercato. Qualche altro consiglio: anche con le varietà a posto, in certe annate l'allegagione è scarsa. Si può rimediare con un paio di trattamenti a base di boro a bassissima concentrazione prima della fioritura e con un paio di trattamenti fogliari a base di calcio, nitrato di calcio costa poco e va bene, dopo la fioritura. Ovviamente buona fortuna agli amici olivicoltori. Con il sommelier Vladimiro Tuliso prosegue la carrellata tra i vini del Friuli Venezia Giulia. Oggi tocca al Picolit, gemma del territorio. Il Picolit è il nostro vitigno autoctono più famoso. Dalle sue uve disidratate si produce un vino dolce che si trova ai vertici della categoria dei vini passiti. Il Picolit assume significato in Friuli nella seconda metà del Settecento, quando Fabio Asquini, un nobile e illuminato agronomo di Fagagna, dedicò attenzione a un vitigno molto trascurato, mettendolo a dimora nella propria azienda. Lo scopo era creare un vino che fosse ispirato al Tokaj ungherese, apprezzato nell'Europa di quegli anni, arrivando anche a sostituirlo perché il vino dolce proveniva con sempre maggiori difficoltà dall'est a causa della guerra dei sette anni che dal 1756 aveva coinvolto l'intero mondo. Asquini non si concentrò solo sul vitigno e sulla trasformazione delle sue uve in vino, ma creò quello che oggi definiremmo un piano marketing per distribuire il prodotto, affidandosi all'amico imprenditore ed economista Antonio Zanon, che diventò l'unico rivenditore autorizzato di Picolit, e organizzò un'intensa attività promozionale, coinvolgendo da Venezia, dove abitava, gli ambasciatori accreditati presso la Serenissima e arrivando così a diffondere un vino pensato per i palati più raffinati. Le prime bottiglie, dal modello disegnato appositamente e marchiate con un logo impresso sul sughero, arrivarono sul mercato nel 1758 e quando Asquini morì nel 1812, quasi 120.000 bottiglie avevano già raggiunto paesi stranieri, dalla Francia alla Russia. Si documenta che anche i papi, a iniziare dal veneziano Clemente XIII, lo volessero assiduamente nei propri calici. Nell'Ottocento la produzione andò scemando come conseguenza della predisposizione della pianta all'aborto floreale che produce grappoli con un ridotto numero di acini. Oggi viene coltivato nella fascia collinare del Friuli Venezia Giulia su una superficie che non raggiunge i 50 ettari. Con la vendemmia 2006 il vino può fregiarsi della denominazione di origine controllata e garantita Colli Orientali del Friuli Picolit DOCG. Un marchio che ne attesta, una volta in più, l'assoluto pregio. Euphorbia Milli, un nome importante per una pianta, invece dalle modeste esigenze. Ce ne parla oggi Alessandro Squizzato della rubrica dei fiori. La famiglia delle Euphorbiacee è vastissima, diffusa in ogni parte del mondo e comprende piante molto diverse tra di loro. Anche la stella di Natale, di cui abbiamo trattato mesi fa, fa parte di questa famiglia. Oggi parleremo dell'Euphorbia Milli, conosciuta anche come spina di Cristo, dal momento che, secondo alcune leggende, sulla testa di Cristo fu posata la corona intrecciata di rami di questa pianta. L'Euphorbia Milli è una pianta poco esigente, originaria dell'Africa meridionale. Si tratta di una semisucculenta, con fusti carnosi. In natura si trova sotto forma di un ampio arbusto, con grosse spine acuminate, che permettono alla pianta di svilupparsi attaccata al fusto di alti alberi. Le foglie ovali, di colore verde scuro, sono presenti solo sui germogli. Nella parte apicale dei rami, per tutta la bella stagione, sbocciano piccole infiorescenze, con dei fiorellini gialli, i veri fiori, circondate da brattee di colore tipicamente rosso che assomigliano a petali. Esistono numerosi ibridi e varietà particolari, con brattee piccole oppure enormi, di colore giallo, bianco, rosa, albicocca, bicolori. Queste piante amano posizioni ben luminose ed è consigliabile porle in contenitori non eccessivamente grandi, utilizzando un terriccio ben drenato. Annaffiamo quando il terriccio è asciutto, evitando di lasciarlo secco a lungo, o la nostra Euphorbia Milli comincerà a perdere il fogliame e a produrre meno fiori. Nei climi miti, lungo le coste, nelle isole e al sud, questa Euphorbia cresce anche in terra, dove può assumere dimensioni fino a un metro e più. Non resistono a temperature sotto i 4 gradi, per cui nelle regioni del nord, dove gli inverni sono più rigidi, è bene collocarla in casa o in un posto molto luminoso. Ha modeste esigenze in fatto di nutrimento. È sufficiente concimare ogni 10 giorni in primavera e estate, con un concime universale povero in azoto. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli, Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi in rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 23,60, 23,90 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 20,60, 21,10, l'orzo per lo specifico 62,65 tra 16,70, 17,20. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 9,50 euro il quintale e l'orzo di 12,30 euro. Buono l'andamento delle contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi leggermente in rialzo, in particolare per gli ortaggi. L'insalata gentile viene quotata da 1,82 euro il chilo IVA esclusa. la lattuga Trocadero da 1,60 a 1,80, le zucchine tra 0,50 e 0,80, i cetrioli tra 1,30 e 1,60, la scarola riccia tra 3 e 3,50, le melanzane tonde da 1 a 1,20, i pomodori in grappolo tra 1 e 1,40, le mele golden da 1 a 1,50, le meloni da 1,50 a 2 euro. Le angurie da 0,80 a 1 euro, le pesche e pesche noci da 1,50 a 2 euro, le albicocche da 2,50 a 3 euro e l'uva italiana da 2,60 a 2,80 euro al chilo. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo poco favorevoli, causa il vento, è stata espressa una scarsa attività nel pescato e i prezzi sono aumentati. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 23 a 36 euro al chilo, IVA esclusa. Le orate da 9 a 22, le sogliole da 6 a 25, le canoce da 5 a 18, i palombi da 3 a 12, le mazzancolle da 14 a 20, le seppie da 8 a 15 e i moscardini o folpi da 10 a 18 euro al chilo. Infine, cenni di pesantezza con prezzi in calo nel settore degli avicunicoli. Il valore dei poliatera varia da 1,50 a 1,52 euro al chilo, IVA esclusa, le anatre da 3,41 a 3,45, le uova oltre 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 19 centesimi il pezzo. Con Francesco Sioni, previsore dell'ARPA, uno sguardo al tempo che farà la settimana entrante. La settimana che si è appena chiusa è stata caratterizzata dal caldo e dall'instabilità. Lunedì e martedì l'influenza dell'anticiclone nordafricano ha portato a raggiungere sulla pianura friulana temperature massime diffusamente tra i 34 e i 36 gradi, con picchi fino a 37 gradi nell'Isontino. La presenza anticiclonica non è stata tuttavia solida e ha permesso quindi l'afflusso in quota a tratti di correnti più fresche che hanno creato un forte contrasto con l'aria calda e umida al suolo, portando quindi a vari episodi di instabilità diffusa, con temporali organizzati che hanno attraversato a più riprese la regione. Temporali caratterizzate da raffiche di vento lineari, anche forti, e locali grandinate. In particolare, martedì 18, nel tardo pomeriggio, una linea temporalesca ha interessato tutta la regione, spostandosi da nord-ovest verso sud-est e determinando raffiche tra i 100 e i 130 km all'ora in montagna, con picchi fino a 160 km all'ora in quota e raffiche diffuse tra i 60 e i 70 km all'ora in pianura. Passando ora alle previsioni per la settimana entrante, dopo una domenica stabile, a partire da lunedì sera, un fronte interesserà la regione, associato a correnti da sud-ovest umide e fresche che daranno inizio a una nuova fase di instabilità. Lunedì quindi, dopo una prima metà della giornata con bel tempo, sulla regione avremo un generale peggioramento, con rovesci e temporali sparsi. In particolare, i venti di scirocco umidi che soffieranno nel pomeriggio su pianura e costa potranno favorire anche la formazione di qualche temporale forte. La fase instabile continuerà anche martedì, con rovesci e temporali sparsi a più riprese durante il corso della giornata, sempre con la possibilità di qualche temporale forte. Con mercoledì avremo un abbassamento delle temperature massime, che sulla pianura dovrebbero riportarsi attorno ai 25-28 gradi circa. Il fronte passerà quindi oltre la regione, determinando stabilità che probabilmente si protrarrà fino a venerdì. La tendenza per la fine della prossima settimana, invece, per ora rimane ancora incerta e perciò raccomandiamo di seguire costantemente l'aggiornamento delle previsioni sulla RAI regionale, sul nostro sito web e sui principali social media. Alla prossima! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi ad un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Se al plu fil dì di Sante Anne, ie tante manne, ovvero se piove il giorno di Sant'Anna, il 26 luglio, è una manna, una fortuna. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli, Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Nei campi. Settimanali per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.